Questo è un podcast di Rivista Militare. Giuseppe Peppino Garibaldi, un eroe italiano nella Rivoluzione Messicana, di Francisco Antonio Enriquez Royes. La Rivoluzione Messicana fu un'epoca di lotta, di ideali e di sacrifici. Nel fulcro di questo capitolo storico, foriero di speranza e caratterizzato da spargimenti di sangue, spiccò una figura speciale, Giuseppe Peppino Garibaldi, straniero che con passione e coraggio lasciò il proprio segno nella lotta per la giustizia sociale in Messico. L'eco di un pomeriggio rivoluzionario. Nel pomeriggio del 7 maggio 1911, nei paraggi di Ciudad Juárez, riecheggiava il brusio dei preparativi. Un vento caldo accarezzava le tende nel luogo dove le forze rivoluzionarie pianificavano il loro prossimo attacco. Tra i leader Francisco e Ignacio Madero, Pancho Villa e Pasquale Orozco, spiccava la figura di Giuseppe Garibaldi, il cui volto e accento straniero lo rendevano inconfondibile dagli altri combattenti. Nato a Melbourne, Australia, nel 1879, Garibaldi parlava spagnolo con un accento che mescolava espressioni inglesi e sudamericane. Era nipote del leggendario Giuseppe Garibaldi, il condottiero dell'unificazione italiana, e di Anita Garibaldi, conosciuta come l'eroina dei due mondi per il suo coraggio in America ed Europa. Fin da giovane Peppino aveva ereditato lo spirito avventuroso e la passione per la giustizia che caratterizzavano la sua famiglia. Un combattente senza confini. La vita di Garibaldi fu la storia di un guerriero guidato dagli ideali. All'età di 18 anni, combatté accanto a suo padre nella guerra greco-turca del 1897. In seguito partecipò alla guerra dei Boeri in Sudafrica e alla rivoluzione liberatrice in Venezuela. Infine, nel 1910, giunse in Messico per unirsi al movimento rivoluzionario contro la dittatura di Porfirio Díaz. Il regime di Díaz, dopo oltre 30 anni di potere, aveva generato un profondo malcontento tra la popolazione. Le elezioni del luglio 1910 rappresentarono un punto di svolta, quando Díaz orchestrò un'evidente frode elettorale imprigionando il suo principale avversario, Francisco Ignacio Madero. Fu dalla sua cella che Madero scrisse il Plan de San Luis, un documento che esortava il popolo messicano a sollevarsi in armi il 20 novembre dello stesso anno. Questo appello non risuonò soltanto in Messico, ma oltrepassò i confini, attirando combattenti stranieri come Garibaldi. La legione straniera nella lotta rivoluzionaria. Nel 1911, le forze rivoluzionarie, con Garibaldi tra loro, avanzarono verso Ciudad Juárez, un punto strategico cruciale al confine con gli Stati Uniti. Oltre alla posizione geografica, la città era fondamentale per lo smercio di armi e munizioni necessarie per la rivoluzione. Garibaldi guidò un gruppo noto come la Legione Straniera, composto da circa 40 combattenti internazionali, uniti dalla passione per la libertà e la giustizia. Tuttavia, la sua origine straniera sollevò dei sospetti tra alcuni dei leader rivoluzionari, come Francisco Villa e Pasquale Orozco. Fu Francisco Madero a difendere Garibaldi, evocando esempi storici di eroi stranieri, come il marchese di Lafayette, che combatté per l'indipendenza degli Stati Uniti, e Francisco Javier Mina, uno spagnolo che lottò per l'indipendenza del Messico. Con parole che riecheggiarono tra i rivoluzionari, Madero dichiarò: «Il nonno e persino il padre del signor Garibaldi hanno sempre messo la loro spada al servizio degli oppressi. Per questo motivo egli non ha fatto altro che seguire il nobile esempio dei suoi antenati». La battaglia di Ciudad Juárez. L'alba dell'8 maggio 1911 segnò l'inizio dei combattimenti per Ciudad Juárez. Le truppe rivoluzionarie sferrarono due attacchi simultanei, uno da sud, lungo la strada verso la capitale dello Stato, e l'altro da ovest, sfruttando la protezione naturale della Sierra de Juárez. La superiorità numerica e la determinazione dei rivoluzionari consentirono loro di sconfiggere l'esercito federale in soli 3 giorni. Il generale Juan Nepomuceno Navarro, leader delle forze federali, si arrese consegnando la città ai rivoluzionari guidati da Madero. Questa vittoria rappresentò un colpo decisivo per il regime di Porfirio Díaz, Poche settimane dopo, il 25 maggio 1911, Díaz presentò le sue dimissioni, aprendo la strada a nuove elezioni democratiche e segnando la fine della prima fase della rivoluzione messicana. Un momento storico indimenticabile. Il 7 giugno 1911, Francisco Madero entrò trionfalmente a Città del Messico, accompagnato dalla moglie, Sara Pérez de Madero, e da Giuseppe Garibaldi. Questo evento è rimasto impresso nella memoria collettiva come simbolo della fine del porfiriato e come l'inizio di una nuova era. Una nutrita folla invase le strade, acclamando il leader rivoluzionario in una processione che durò quasi 3 ore per le numerose persone che celebravano il momento storico. Il lascito di Garibaldi. Dopo questi avvenimenti, Giuseppe Garibaldi lasciò il Messico per continuare la sua missione in altri conflitti armati nel mondo. Tuttavia, il suo lascito rimase indelebile nella memoria di chi visse e prese parte alla fase maderista della rivoluzione messicana. Il suo nome non solo evocava coraggio e lotta per gli ideali, ma anche un impegno profondo per la democrazia e la giustizia sociale, valori che riecheggiavano oltre i confini e le generazioni. L'impatto di Giuseppe Garibaldi nella storia del Messico rimane vivo fino ai giorni nostri. In riconoscimento del suo straordinario contributo, diversi governanti hanno deciso di onorare la sua memoria intitolandogli piazze, strade e scuole nel paese. Tra questi tributi risalta l'intitolazione della Plaza Garibaldi, anticamente conosciuta come Plaza del Baratillo, situata nel centro storico di Città del Messico e avvenuta nel 1921. Questo luogo emblematico è diventato il cuore pulsante della musica tradizionale messicana, in cui i mariachis riempiono l'aria con le loro melodie e le tradizioni prendono vita. Circondata da bar, cantine e ristoranti storici, Plaza Garibaldi non solo celebra il lascito di Garibaldi, ma anche la ricchezza culturale del Messico, divenendo attualmente un simbolo indiscutibile di identità e di orgoglio nazionale. Il podcast di Rivista Militare vi dà appuntamento al prossimo episodio.